Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sempre venerdì, partiremo quasi con la classifica, la poco invidiabile classifica sugli sprechi delle nostre pubbliche amministrazioni e anche il caso virtuoso che portiamo ogni settimana. Gli altri temi di questa giornata riguarderanno da un lato il petrolio, ne parliamo subito, dall'altro invece i dati sul disoccupazione, gli ultimi diffusi dall'Istat. Allora, anche qui, diciamola tutta prima di iniziare con le polemiche, il dato è abbastanza inequivocabile, ossia con il venir meno dell'impatto della decontribuzione forte, si arrivava fino a 8.000 euro in un anno, quella decisa l'anno scorso che valeva solo per il 2015, quest'anno c'è ma in forma più ridotta. Torna a salire il tasso di disoccupazione a febbraio, è pari all'11,7%. Perché dico che è molto in relazione al ridursi dei vantaggi, dei benefici sulla decontribuzione nel 2016? Perché l'Istat stima che i disoccupati a febbraio siano aumentati di circa 7.000 unità, nel corso dell'anno, cioè rispetto all'anno prima, sono diminuiti di 136.000 unità, calano anche gli inattivi, meno 99.000, ma rispetto a gennaio aumentano. Dicevo, perché parliamo dell'impatto degli incentivi? Perché la stessa Istat ricorda come ci siano 97.000 occupati in meno a causa della riduzione dei lavoratori permanenti, cioè sono 92.000 in meno in un mese ed è il primo calo da inizio 2015. Parliamo dei dipendenti a tempo indeterminato, ok? E quindi c'era stata una crescita a gennaio più 0,7% rispetto a un anno prima, c'è invece un lieve recupero dei lavoratori indipendenti e anche invece un calo dei dipendenti a termine. Lo sconto, lo ricordo, da gennaio è calato fino a un massimo di 8.000 euro all'anno a un massimo di 3.250 euro l'anno. C'è un leggero calo della disoccupazione giovanile dal 39,2% al 39,1%. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Ripeto, lo stesso ministro Poletti, se ho ben visto le dichiarazioni, dice: dopo i dati positivi di gennaio, quelli diffusi oggi indicano che il mercato del lavoro continua a registrare oscillazioni congiunturali legate a una situazione economica che presenta ancora incertezze. Cioè, riconosce anche Poletti che il dato presenta più di un'incertezza, non è un dato che si può leggere in maniera univoca. Allora, su questo, a me sembra molto chiaro che quello che si poteva fare per spingere chi era indeciso ad assumere è stato fatto. Se non riparte l'economia, o meglio, se continua a ripartire con tassi così bassi, lo 0,8% l'anno scorso, vediamo quest'anno se faremo l'1,1 o l'1,3, ma insomma, se i tassi di crescita saranno così bassi, non ci possiamo aspettare grandi novità dal mercato del lavoro. Ripeto, perché chi ha avuto la possibilità di assumere a tempo determinato lo ha fatto se poteva, se voleva, se ne aveva bisogno nel 2015, quando ha potuto beneficiare sia di una decontribuzione molto forte che poi del Jobs Act da marzo dell'anno scorso. E quindi insomma, lì si è esaurito il grosso di chi magari ha atteso oppure ha deciso che, viste i benefici, aveva un senso cambiare da tempo determinato, da partita IVA a tempo indeterminato. Ora o riparte l'economia in senso proprio, è vero, o se no i miglioramenti del mercato del lavoro, mi sbaglierò, ma saranno, se vi saranno, comunque marginali. 349-238-6666 sia per SMS che WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. E partiamo dalle borse, che sono oggi tutte negative: dell'1,40% Parigi, dell'1,60% Francoforte, dello 0,80% Londra. Positiva invece l'America sul Dow Jones, dello 0,20%. Milano perde l'1,5%, è di nuovo sotto i 18.000 punti, 17.847 punti in questo momento. Male quasi tutto oggi, si salva Azimut più 3,50, Anima Holding più 2,80, Mediolanum più 1,30, Iux più 0,90, come Buzzi Unicem, lo 0,40 lo guadagna invece la Pop Emilia Romagna. Alle 18 usciranno i dati auto, non so se qualcuno abbia già delle anticipazioni e se questo soprattutto sia il motivo per cui Fiat perde il 4,60%, è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Sicuramente ha deluso chi vi scommetteva la dichiarazione di Marchionne, che ha escluso categoricamente un'aggregazione con Peugeot perché i vantaggi sarebbero troppo scarsi. Le vendite di Fiat negli Stati Uniti comunque sono andate bene, più 8% a quota, Fiat Chrysler chiaramente, a quota 213.000, è il miglior marzo con quanto a vendite negli Stati Uniti per il gruppo da 10 anni a questa parte. Vale anche però per il gruppo Ford, che ha fatto più 8%, non per il gruppo General Motors, che invece è andato peggio delle attese, e soprattutto il gruppo Volkswagen, che negli Stati Uniti ha avuto un altro calo brusco, 10%, e continua a risentire comunque dello scandalo delle emissioni sul diesel. Ancora per quello che riguarda invece il petrolio, quali sono le notizie di oggi? Beh, le notizie di oggi, non ho dato gli altri titoli, scusatemi. Banco Popolare meno 4,40, Telecom Italia meno 3,5, Eni meno 3,40, ecco perché volevo arrivare al petrolio, CNH meno 3,20, Fineco Bank meno 2%, Intesa San Paolo meno 1,80, come in Exor l'1,70 lo perdono sia le Generali che Unicredit, l'1,5 il calo di Ferragamo ed ST Microelectronics, ma anche della Pop Milano. Petrolio, che è successo sul petrolio? Allora, ricorderete la vicenda che ha portato il petrolio quasi sui minimi storici. Braccio di ferro tra l'OPEC e gli Stati Uniti, l'OPEC puntava ad abbassare così tanto il prezzo del petrolio da buttare fuori mercato i produttori di petrolio americano, shale oil in primis, visto che l'America si era pericolosamente, per i paesi OPEC, si stava quasi garantendo un'autonomia negli approvvigionamenti. Perde la scommessa, vado molto veloce, l'Arabia Saudita, che era il principale motore di questo scontro. C'è chi dice che non fosse solo l'obiettivo lo shale oil americano, ma anche il non rendere conveniente un ingresso dell'Iran nel mercato petrolifero, quindi ci fosse anche un modo per danneggiare l'Iran. Detto ciò, sappiamo quanto alto lo scontro tra l'Arabia Saudita sunnita, come capofila del gruppo del mondo sunnita, e l'Iran sciita. Scontro strisciante, ma neanche tanto se si guarda le notizie di carattere politico e anche militari nell'area. Ma detto ciò, 3 settimane fa, dopo che il petrolio continua a precipitare e i paesi OPEC iniziano quasi a sfaldarsi, perché insomma Venezuela non riesce più a starci dentro, la Russia stessa si lamenta di un crollo che peggiora ulteriormente la sua economia, si arriva a un accordo per cui si dice: ok, blocchiamo, diamo uno stop alla produzione. È la prima volta che c'è un'iniziativa in tal senso, e infatti il petrolio torna intorno ai $40, leggermente anche sopra i $40 al barile. Oggi perde quasi il 4% ed è sceso anche sotto i $37 al barile. Perché? Perché si è avuta notizia che l'Arabia Saudita è sì pronta a congelare la produzione di petrolio, ma solo se lo faranno anche l'Iran e altri grandi produttori. L'ha detto il vice principe ereditario Mohammed bin Salam, e questo rischia di compromettere completamente l'esito del vertice in programma il 17 aprile tra i paesi OPEC e gli altri maggiori esportatori. Il riferimento è chiaramente soprattutto rivolta all'Iran. Il ministro dell'energia russo invece, Novak, ha detto: non abbiamo alcuna informazione, ma tanto è bastato per far calare il prezzo del petrolio. Allora, ancora per quello che riguarda invece, visto che parliamo di Russia, oggi c'è il dato statistico certificato, nel senso che il PIL russo è calato del 3,7% nel 2015. Il rublo continua a calare, adesso è scambiato a 77,7 sull'euro e a 68,1 nei confronti del dollaro. Altre notizie in breve: la disoccupazione negli Stati Uniti è leggermente salita dal 4,9 al 5%. Vediamo l'Europa, dove continua un po' di polemica sull'output gap, un tema un po' tecnico, insomma il fatto che alcuni paesi, tra cui l'Italia, chiedono all'Europa un calcolo di riallineare il modo in cui si calcola la crescita reale tra la crescita potenziale. Questo permette poi dei margini diversi. La Commissione Europea dice: abbiamo ricevuto la lettera, ma facciamo notare che l'indicatore è stato definito da tutti gli Stati membri e accettato da tutti. Nel frattempo, mentre la crescita dell'economia spagnola rallenta, anche dell'economia spagnola, prevista per quello che riguarda il 2016 dal 2,8 al 2,7, però il dato è molto buono, è molto forte in Spagna. Ricordo che quest'anno noi, se va bene, faremo un 1,3, se no faremo un 1,1, stando alle ultime previsioni. E ricordo che la Spagna l'anno scorso ha fatto un balzo del 3,15% nella crescita del PIL. Dicevo, al di là della Spagna che rallenta, oggi ci sono anche i dati sul costo del lavoro nell'area euro. Ecco, la cosa interessante è che il costo del lavoro in media nell'area euro è salito dell'1,5%, con una media di 29,5 euro all'ora. L'Italia invece ha registrato il secondo maggior calo, arrivando a 28,1 euro all'ora, quindi sotto la media europea. Cioè il costo, chiaramente il panorama è molto variegato. In Bulgaria il costo medio orario è di 4,1 euro, che è il più basso di tutta l'area. Sul fronte opposto c'è la Danimarca, che ha il più alto costo del lavoro, 41,3 euro all'ora. Il secondo paese è il Belgio, 39 euro, segue la Svezia, 37, Lussemburgo, 36, la Francia, 35, Germania, 32, Spagna invece 21, l'Italia si colloca appunto in mezzo con 28 euro, ma insomma nettamente più basso il costo del lavoro italiano, che è uno dei pochi a essere calati rispetto a quello francese e anche rispetto a quello tedesco. Allora, volete che parliamo della Guidi? Per oggi mi sembra, il fronte mi sembra molto molto politico, l'abbiamo data ieri, praticamente non si era ancora dimessa, ma le intercettazioni le abbiamo lette in diretta. Comunque parleremo anche, ripeto, in questo momento c'è la richiesta, la sfiducia dell'opposizione, voto di sfiducia dell'opposizione al governo, ne parleremo, soprattutto parleremo anche di cosa fosse questo progetto, delle dichiarazioni di Renzi su questo che sono arrivate poco fa. Prima di arrivare alla Guidi, ancora due dati di carattere congiunturale. L'attività del settore manifatturiero in Italia è cresciuta più del previsto, l'indice è salito a 53,5 punti, mentre è calata l'attività manifatturiera in Francia, sotto la soglia dei 50 punti che indica lo spartiacque tra crescita e invece recessione. In Germania è salito a 50,7 punti. Sul tema delle imprese, il ministro Padoan, oggi inaugurando il Festival Città Impresa a Vicenza, ha detto che il governo sta preparando un ulteriore pacchetto di misure che riguarderanno la finanza per la crescita. Vorrei ribadire una cosa che credo sia nota, ma che è molto importante. Uno dei pilastri fondamentali della politica economica del governo consiste nel sostenere l'attività delle imprese sotto varie dimensioni: la capacità di investimento, l'accesso a forme di finanziamento aggiuntive rispetto al credito bancario, la crescita dimensionale, il miglioramento della governance, l'internazionalizzazione e, ultima ma non ultima, l'attività di innovazione. Tutte queste cose sono racchiuse nel filone di politica di intervento a favore delle imprese che noi chiamiamo finanza per la crescita. Da quando è nato il governo, il filone finanza per la crescita ha prodotto diversi risultati. e alcuni di questi già cominciano a produrre effetti visibili sull'attività di investimento, sulla diversificazione delle fonti di finanziamento, sul miglioramento della governance delle imprese, sull'attrattività in generale per gli investimenti anche esteri da parte del nostro Paese. Ma proprio per questo non ci fermiamo qui. Il Governo sta preparando un ulteriore pacchetto di misure che riguardano finanza per la crescita. È ancora presto per anticipare i dettagli, ma contiamo che nelle prossime settimane queste misure siano messe a frutto. E poi sulle previsioni di crescita, anche Padoan ammette onestamente che la crescita è meno forte delle attese, però c'è già l'impatto delle misure di finanza per la crescita sullo sviluppo del Paese. L'attività economica di un Paese si basa sulla iniziativa giornaliera costante di ogni singola impresa. Ogni singola impresa porta il suo contributo fondamentale alla crescita del Paese e quindi alla possibilità di accrescere l'occupazione, che rimane sempre il metro finale del successo della politica economica che si possa immaginare. Ma tutto questo si deve tradurre in risultati anche aggregati e, malgrado la crescita sia forte, ma un po' meno forte di quanto si poteva immaginare qualche mese fa, già si vede anche nei dati macroeconomici l'impatto delle misure di finanza per la crescita sullo sviluppo del Paese. Nel prossimo documento di economia e finanza, che sarà approvato dal Governo fra pochi giorni, ci saranno evidenze aggregate macroeconomiche di questo impatto positivo delle misure. Allora, per quello che riguarda invece la vicenda dell'ex ministro Guidi, a questo punto, oggi, ripeto, il tema è più che altro politico, di scontro politico, però ha parlato poco fa, non penso che siamo di essere in grado di farvi ascoltare l'audio ancora, perché lo stavamo acquisendo, il presidente del Consiglio Renzi da Washington ha parlato di tante cose e anche delle dimissioni della Guidi. Ha detto: l'Italia non è più quella di una volta, se prima per telefonate inopportune non ci si dimetteva, ora ci si dimette. Io non so a quali, ne abbiamo lette tante di telefonate inopportune si riferisca Renzi, ma poi ha continuato: il progetto Tempa Rossa, quello che ha inguaiato il compagno della Guidi e poi anche la Guidi, da posti di lavoro, è una cosa sacrosanta da fare. Avere, dice Renzi, avere consentito a delle persone di venire in Italia, riferimento alla Total, e fare degli investimenti è una cosa sacrosanta. Io lavoro perché si creano posti di lavoro nel nostro paese e il progetto Tempa Rossa è lo stesso che io avevo annunciato mesi prima. Ma infatti ci permettiamo di far notare che il problema non è il progetto Tempa Rossa. Il problema è la telefonata dell'ex ministro Guidi al suo compagno, la telefonata del compagno, poi almeno le intercettazioni che abbiamo letto, al responsabile della Total, e quindi questa commistione. Nessuno ha attaccato il progetto in sé. Il problema è che non è accettabile che un compagno chieda al ministro di intervenire in un decreto a suo vantaggio e poi uno poteva dire: ma magari era un pur parlé. No, perché poi lui chiama il responsabile della Total dicendo tutto a posto. Okay, adesso la sintetizzo, ma le intercettazioni di oggi sono su tutti i giornali, ovviamente. Allora, Gianluca Gemelli, nel frattempo il compagno dell'ex ministro Guidi, ha rassegnato le sue dimissioni da commissario di Confindustria Siracusa. Ora, massimo rispetto, ma se la tua compagna si dimette per colpa tua, il minimo che puoi fare da ministro è che tu ti dimette da commissario di Confindustria Siracusa. Appunto è indagato dalla procura di Potenza, però con riferimento alle notizie di stampa che mi riguardano, ha detto oggi Gianluca Gemelli, mi preme sottolineare la mia estraneità ad ogni condotta illecita e rendo noto che ho già chiesto al procuratore della Repubblica giunto presso il Tribunale di Potenza di poter chiarire la mia posizione. Esprimo piena fiducia nei magistrati che ritengo essere in questa fase i miei unici interlocutori. Vabbè, su questo se arriveranno altre novità ne parleremo. Adesso vorrei ho già alcuni messaggi su questo Vorrei far ascoltare invece i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti, riguardano i dati che citavo prima sulla disoccupazione. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Lieve rialzo per il tasso di disoccupazione, che in febbraio è risultato pari all'11,7%, un aumento dello 0,1%, pochi decimali, ma che comunque sul piano psicologico certamente non aiuta, è quanto ci ha detto l'Istat pubblicando i dati provvisori su occupati e disoccupati. Per quanto riguarda i dati più precisi, i disoccupati sono aumentati di circa 7.000 unità, con un aumento percentuale dello 0,3%, che sintetizza un dato di crescita tra gli uomini e di calo tra le donne. Positivo, anche se di poco, il dato sulla disoccupazione giovanile, che scende al 39,1%, anche in questo caso una variazione decimale, meno 0,1%. Insomma, l'entusiasmo che ha suscitato il dato di gennaio, quando c'era stato registrato un buon aumento dell'occupazione, si è un po' spento con il dato di febbraio, ma qualche ragionamento andrebbe fatto. Già a fine 2015 si poteva aspettare, per i primi mesi del 2016, un contraccolpo dalla riduzione degli incentivi, i famosi incentivi del Jobs Act, che hanno reso più vantaggioso assumere a tempo indeterminato. Il risultato è che il tasso di disoccupazione difficilmente tornerà a calare, se non nella seconda metà dell'anno. In altro modo, non dobbiamo quindi considerare una frenata del miglioramento occupazionale, ma inquadrato soprattutto come una pausa, in attesa, soprattutto da parte degli imprenditori, di capire se dal governo arriveranno altri aiuti alla massa di disoccupati che ancora grava sul paese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, alcuni mi stanno chiedendo cos'è Tempa Rossa. È un giacimento petrolifero nell'alta valle del Sauro, in Basilicata, e il progetto per lo sfruttamento si estende, se non ricordo male, nel territorio dove si trovano 5 pozzi: Corleto, Perticara, il sesto pozzo è a Gorgoglione. Poi cito anche i dati che abbiamo letto dal rapporto della Total, sul sito della Total, che è l'operatore incaricato dello sviluppo del progetto. Saranno perforati una volta ottenute le autorizzazioni. A regime l'impianto dovrebbe avere una capacità produttiva giornaliera di circa 50.000 barili di petrolio, 230.000 metri cubi di gas naturale e 240 tonnellate di GPL e 80 tonnellate di zolfo. Nessuno infatti contesta Tempa Rossa. Il riferimento di Renzi poteva essere la Cancellieri nella vicenda Fondiaria SAI. Sì, può essere che il riferimento fosse la Cancellieri. Qualcuno fa dei paralleli con la vicenda del ministro Boschi, è un po' diverso, nel senso che, fermo restando che di Po Petrulli abbiamo parlato decine di volte, qui c'è proprio una telefonata tra l'ex ministro Guidi e il suo compagno. Nel caso da Boschi non abbiamo, che io ricordi, letto nessuna telefonata oggettiva. Poi non mi può dire ma questo cosa vuol dire, perfetto, però dico, in questo caso c'era veramente una telefonata difficilmente gestibile, per essere buoni, soprattutto perché dopo questa telefonata, ripeto, parte un'altra telefonata del compagno all'esponente della Total, per cui insomma, dai. Se non ti dimetti in questi casi, quando ti dimetti? Allora, 349-238-6666, sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, meteo, e poi partiamo con la classifica. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, partiamo bassi ma poi arriviamo alti, questo lo dico senza nessun riferimento ambiguo. Partiamo al quinto posto con la classifica della settimana. Allora, io mi chiedo che cosa debba succedere a una docente in un'università italiana perché venga rimossa dal suo posto di lavoro. E mi riferisco a Giuseppina Pizzolante, condannata per calunnia e utilizzo di opera altrui. Sentenza emessa anche dalla Corte d'Appello di Bari. Che cosa è successo? Ha utilizzato poco, 130 pagine di una tesi non sua per fare una monografia per un concorso all'università. È un concorso del 2008, diventa professore grazie a questo concorso di diritto internazionale nella sede di Taranto dell'Università di Bari. Però, piccolo problema, Concetta Piscitelli, che era quella che aveva scritto la tesi, si accorge del plagio, la denuncia e tutelando i propri diritti. Il processo di primo grado si conclude con la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Lei ricorre in appello, al termine anche dell'appello il giudice riduce la condanna, ma le lascia comunque 1 anno di reclusione, anche se poi ha dovuto accettare la prescrizione di 3 dei 5 capi di imputazione. Anche nel procedimento era coinvolto anche il presidente degli ordini degli avvocati di Taranto, in carica all'inizio degli anni 2000, perché l'imputata, secondo la ricostruzione, nel tentativo di provare che a copiare fosse stata la querelante, non lei, cioè è arrivata a dire: non è vero che io ho copiato la tua tesi, sei tu che hai copiato il mio dottorato, qua ai massimi. Comunque aveva depositato all'università e all'ordine forense un documento retrodatato nel quale compariva anche la parte scritta da Piscitelli, cioè la vittima. Questa, cioè, tutte le ha cercate. Comunque il concorso alla fine viene annullato. Il problema è che la professoressa Pizzolante continua a occupare il suo ruolo in università. Ora, ripeto, infatti l'avvocato della Piscitelli dice: non è il primo, non sarà l'ultimo, e questo dimostra ancora una volta che anche nell'università non va avanti chi merita e chi ha le capacità. Ma io chiedo, ma cosa ci vuole l'università di Bari? Già, secondo me, col primo grado, una che copia una tesi è il tipo di reato che è anche particolarmente fastidioso, devi fare il docente. Ma adesso che andate in appello, cosa aspettate? Chiedo. Certo, potrebbero questo scompare rispetto al quarto posto e qui andiamo ad Imperia, ma è un po' di tempo che la Liguria sta tornando alla ribalta di questa classifica. Allora, che succede ad Imperia? Il danno non è tanto, però insomma 100.000 euro, 99.965 euro. È il danno economico calcolato dalla Procura Generale della Corte dei Conti di Genova sulle irregolarità nell'organizzazione dei corsi organizzati dalla ASL di Imperia nel 2008. Ora, i corsi erano importanti per gli infermieri perché erano il BLSD, Basic Life Support Defibrillation, cioè un corso su come basico su come si utilizza un defibrillatore, e poi la prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione emergenze. La Guardia di Finanza di Imperia però va a indagare e scopre, dopo un insieme di esposti e anche soffiate, si accorge che il personale interno che si era occupato della docenza con tanto di retribuzioni si era reso responsabile, nell'ordine, della mancata timbratura del cartellino, di indennità riconosciute più volte per la medesima prestazione, di compensi pagati con riferimento a corsi per i quali mancavano i registri firma sia degli allievi sia dei docenti. Praticamente stiamo parlando quasi di corsi fantasma, e infatti l'accusa è truffa, rivolta sia ai dirigenti che ai medici, 9 in tutto. L'inchiesta penale scatta nel 2014, si chiude con un nulla di fatto perché anche in questo caso arriva la prescrizione, però restano i residui disciplinari e l'ASL aveva adottato misure severe infliggendo ai propri dipendenti sospensioni, e la Corte dei Conti che stima il danno fatto all'erario. Allora, i 99.000 euro che devono restituire gli 8 sono così ripartiti: 65.900 euro per 65.900 euro sono chiamati a rispondere in solido coloro che avevano svolto la funzione di relatori ai corsi, ossia gli impiegati amministrativi Vincenzo Rio, Carlo Pesco e Walter Bestagno, l'operatore tecnico CED Lionello Fagioli, ma anche in via sussidiaria il dirigente medico Stefano Ferlito, gli infermieri Salvatore Labrosciano e Carmelina Loconte, tutti per le ore di docenza non prestate o non regolarmente documentate. E poi una nota a parte, giustamente la Procura della Corte dei Conti la riserva al dottor Gianluigi Piatti, direttore del Dipartimento Staff, che nonostante avesse ricevuto, leggo testualmente, numerose lamentele sui comportamenti scorretti, non aveva adottato alcun provvedimento ed è chiamato a rispondere in via sussidiaria per una quota pari a 30.000 euro. Adesso i diretti interessati hanno un mese di tempo per presentare le loro deduzioni e chiedere di essere sentiti personalmente. Andiamo al terzo posto, eccolo qua, Barletta, non ci facciamo mancare nulla, andiamo anche in Puglia. Barletta, c'è una pista atletica che dovrebbe essere, così come memoria storica, una delle più importanti d'Italia, è quella di dello stadio Puttilli di Barletta. Barletta è la città di Pietro Mennea. Allora, è ridotta un rudere, posso dire un'altra parola, è ridotta un rudere, però c'è un progetto del CONI e del comune di Barletta per realizzare la pista. Qual è il problema? Il progetto, ci vi dirò anche quanto costa, perché è all'interno di un finanziamento da 3,5 milioni che va a 7 progetti in tutta Italia, compreso quello di Barletta. Si chiama Sport per le periferie, è un progetto del CONI. Perfetto. A Barletta vanno 785.000 euro, e il progetto è firmato dal servizio impianti sportivi del CONI. Questo riguarda lo studio di fattibilità e gli interventi, però siamo a questa fase. Allora, qual è il problema? Il servizio impianti sportivi del CONI è un ente che svolge attività di programmazione, coordinamento, studi e ricerche. I nomi dei tecnici che si occupano del fascicolo Barletta, però, stranamente, non sono quelli che vengono riportati in alcune pagine ufficiali del CONI come consulenti abituali, ma altri due professionisti, l'ingegner Pierino Profeta e l'ingegner Luca La Bombarda. Vabbè, qual è il problema? No, si tratta di due persone che il presidente del CONI pugliese, Elio San Nicandro, che fu già assessore comunale a Bari, giunta Emiliano, conosce molto bene. Non solo perché il comune di Giovinazzo, dove San Nicandro è stato assessore, aveva già affidato in passato incarichi allo studio dei due professionisti, appunto Pierino Profeta e Luca La Bombarda, ma perché ci potrebbe essere il sospetto, diciamo così, il sospetto di un leggero conflitto di interessi tra San Nicandro e le persone a cui affida gli studi e la fattibilità. Allora, il nostro comune, scrivono in una nota al presidente del CONI, le ha assegnato un incarico nel novembre 2013 relativo al collaudo statico di opere per un campo a 5. Beh, per queste sue attività, questa è bellissima, lei indica, presidente del CONI pugliese Elio San Nicandro, lo studio che ha sede in corso al Cile De Gasperi, al 340 in Bari, con telefono, e c'è il telefono, numero che compare ancora nel curriculum da lei depositato, cioè dello stesso San Nicandro che deve dare a uno studio l'opera. Cosa succede? Alla stessa sede fanno riferimento gli ingegneri Pierino Profeta e Luca La Bombarda, soci della società cooperativa Architesis, che ha sede nello stesso indirizzo. In sostanza, San Nicandro lavora nello stesso studio dei tecnici che nominava come assessore al comune di Giovinazzo prima e come presidente regionale del CONI. Una coincidenza. Sarà una condivisione d'appartamento, lo faranno per risparmiare sull'affitto. Ma tra l'altro, San Nicandro conosce pure La Bombarda bene, lo conosce da quando è nato, ha infatti il nipote figlio della sorella della moglie. Ciò nonostante, gli ha dato un incarico di manutenzione straordinaria di una palestra e di una scuola media quando era comune di Giovinazzo, e adesso gli dà anche quello per realizzare la pista d'atletica di Barletta. Ma è tutta una coincidenza. Per coincidenza, l'indirizzo, il numero di telefono, il numero civico, la via dove stanno i due ingegneri coincidono con quelle dove sta anche San Nicandro. Ma vabbè, cosa vuoi? Secondo posto, non è la Sicilia al primo posto questo mese, è al secondo. Qui ho bisogno di un po' di tempo per raccontarla, perché sono 300 milioni di euro in ballo con 6.000 assunzioni in bilico, un pasticcio brutto. Andiamo sul traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Allora, secondo posto, il caso formazione in Sicilia. Che cosa succede? Nella migliore delle ipotesi, qua stiamo parlando di uno spreco da 300 milioni di euro, nella peggiore di un disastro per 6.000 famiglie, perché dopo anni di promesse e annunci di riformare in maniera strutturale e definitiva tutto quello che ruota attorno al settore della formazione professionale e dei servizi di impiego in Sicilia, gli ex sportellisti. Allora, il governo Crocetta era arrivato a impegnare per entrambi i comparti, cioè formazione professionale e servizi all'impiego, la più grossa cifra mai stanziata nella sua esperienza, quasi 300 milioni di euro di fondi europei per mettere, insomma, riattivare tutti questi corsi che ormai stavano andando verso il declino. Però, però c'è un ricorso che rischia di mandare comunque tutto a monte, almeno sul fronte della formazione. Partiamo dal fronte formazione. Non è che ci sia una riforma in vista, però c'era stata la pubblicazione di un avviso da 167 milioni di euro, 30 in più rispetto all'anno scorso, per i soliti corsi di formazione. Nessuno concorda con le parti sociali, nessuno concorda con le imprese, che non si capisce perché, se devi fare un corso di formazione concordalo con i sindacati e le imprese, almeno magari puoi capire che cosa serve formare. Ma vabbè, tant'è, almeno insomma parte un corso di formazione. Ma che? Perché c'è il ricorso di un ente, un solo ente, che ha un solo dipendente. Però questo è il problema degli enti: un ente con un solo dipendente deve chiudere, eppure fa ricorso al TAR e contesta il criterio con cui vengono premiati gli enti che possono accedere ai fondi per la formazione, perché dice: date un punteggio maggiore alle sigle che si impegnano ad assumere personale dall'albo dei vecchi formatori. Parla direttamente l'assessore Bruno Marziano di un atto di sabotaggio. Stavamo per partire col piede giusto e per metterci al passo di regioni virtuose con certificazioni riconosciute a livello nazionale, tutto bloccato. Ho capito, ma è bloccato anche perché in Sicilia, e non solo, esiste un ente con un solo dipendente che può fare un ricorso, come tutti gli enti, al TAR. Questa è la follia di sto paese. Comunque andiamo avanti. Il fronte degli ex sportelli multifunzionali che dipendono dall'assessorato al lavoro, invece, anche lì bisogna rimettere in servizio 1700 ex sportellisti da affiancare ai centri per l'impiego. Con quali soldi? Beh, c'è un fronte trasversale dentro il Parlamento siciliano che vuole utilizzare le risorse del Fondo Sociale, o meglio, quelle poche risorse del Fondo Sociale che restano dopo che le hai utilizzate in buona parte per la formazione. Resterebbero 50 milioni di euro per i prossimi 7 anni. Così, se questi soldi venissero usati per gli ex sportellisti, che succederebbe? Che non resterebbe più un euro per la Sicilia, per aiutare le categorie disagiate. I fondi sociali, l'Unione Europea ce li dà anche e soprattutto per i poveri e le fasce emarginate, ma chiaramente non resterebbe a questo punto un euro. Questo, eravamo molto indecisi se mettere al primo posto, ma poi ci siamo accorti che c'era qualcosa che andava al di là del bene e del male, per dirla con Nietzsche: astronavi in fiamme al largo di Orione, una cosa incredibile. Allora andiamo sul vincitore. And the winner is... io spero che non si arrabbi, è l'ergastolano Francesco Cavorsi. Voi dite: ma come fate a premiare un ergastolano? Ti spiego perché. 53 anni, da San Giovanni Rotondo, un passato da romanzo criminale, condannato alla pena massima per 3 omicidi eseguiti negli anni 90, quando tra partite di droga e regolamenti di conti ha scalato la gerarchia della mala milanese. Lui era affiliato alla Sacra Corona Unita Pugliese, diventa famoso come il killer in sedia a rotelle, perché è paraplegico dal 98, dall'88, scusatemi, quando fu ferito da un altro capo 'ndrangheta ma restò in vita. Anzi, un po' diverso, cioè le pallottole gli furono sparate dal capo 'ndranghetista Pepe Flacchi. Comunque il nostro Cavorsi è riuscito comunque a eliminare i suoi nemici e li ha convinti a salire in macchina e li ha uccisi dentro l'automobile. Insomma, un personaggino che speriamo non ce l'abbia troppo con noi. Ma perché lo mettiamo al primo posto? Perché io vi chiedo: in quale paese al mondo un ergastolano, plurergastolano per carità, in carrozzina, passa 15 anni, ho detto 15 anni, in ospedale, all'ospedale Niguarda di Milano, in una stanza con 2 letti, ma siccome un ergastolano non può avere nessuno accanto, al modico costo di 700 euro al giorno, 4.900 euro a settimana, 235.000 euro l'anno, c'è costato 3.525.000 euro. Dici perché? Perché, e tra l'altro, è ritornato all'ospedale, perché era un po' di mesi che non ci stava, adesso è tornato nella sua camera doppia a uso singolo, pasti TV, cellulari, visite, parenti, amici, nessun piantone di polizia. Allora, che cosa succede? Già la cosa fu segnalata a marzo 2014, si mossero sia il ministro della giustizia Orlando che la sanità Lorenzin. Ispezioni, relazioni, come mai sia possibile che un boss del genere viva a carico della spesa pubblica, non in carcere, ma in un ospedale dove occupa due posti letto, va in giro come cavolo vuole anche perché non c'è il piantone. Allora, il punto è questo, lui è un detenuto che da tempo non è più in carico al DAP, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, bensì alla magistratura. E viene trasferito in un altro luogo, meno costoso, una struttura del comune. Il killer però è affetto da diverse patologie, ma non bisognoso di una struttura di degenza per malati acuti. Men che meno di 700 euro al giorno di spesa al Niguarda. Questo lo dichiara 2 anni fa il direttore sanitario del Niguarda, Giuseppe Genduso. Quindi sembrava che almeno 2 anni fa avessimo chiuso tutto, ma che? 3 mesi fa il padrino pugliese rientra al Niguarda, la sua camera doppia è al DEA, il padiglione che ospita tra l'altro il reparto di chirurgia di emergenza plastica e maxillofacciale, è un ritorno a casa, non so se avrà salutato gli infermieri, ormai ha sviluppato anche relazioni sociali, insomma 15 anni è una vita. Voi pensate che questo plurigastolano risulta domiciliato all'ospedale Niguarda Cagrande a piazza dell'ospedale Maggiore 3 Milano, cioè non, ripeto, fa tutto quello che vuole, gira in ospedale, perché sta con la sedia a rotelle, ma era la stessa che usava per compiere gli omicidi anni fa. Il soggetto è pericoloso sì, ma per i giudici incompatibile con il carcere, quindi la pena a suo tempo fu differita al posto della cella una stanza d'ospedale, doppia perché essendo un detenuto non può stare con un altro paziente, tecnicamente finisce gli arresti ospedalieri. Nella seconda metà degli anni 90 c'era ancora la DC, forse in quegli anni, e il PSI, Cavour si gira un insieme di ospedali, poi nel 2001 crollano le Torri Gemelle, ma che non cambia niente, Cavour si trova casa al Niguarda, ogni tanto esce in permesso, via libera arriva via fax dal giudice di sorveglianza, poi torna, quando arriva la denuncia 2 anni fa, l'assessore regionale della salute Mario Mantovani, poi arrestato per tangenti e oggi in carcere pure lui, ma non c'entra nulla con questa vicenda, dice che Cavour sia un carico che è stato imposto dall'autorità giudiziaria. Ora, la cosa più bella di questa vicenda, che ha dell'incredibile 15 anni che questo vive al Niguarda, con 3 omicidi e 3 ergastoli, è la dichiarazione di Cavour, che dice: io spero che le mie condizioni di salute migliorino e spero a quel punto di poter finire di scontare la mia pena in carcere. Grande, no? Non gli crede nessuno, Cavour, ma tant'è. Sì, mandiamolo al Parlamento europeo. 15 anni che questo ci è costato 3.525.000 euro al Niguarda, con tutti i problemi che abbiamo. Allora, no, l'ironia di alcune frasi non la posso accettare, non posso riferirla. Andiamo sul GR24, poi il caso Virtuoso e poi anche i dati sul mercato del lavoro, oltre che Piazza Affari. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30. Su Radio 24. Focus Economia. Diciotto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, tantissimi messaggi sull'ergastolano che è 15 anni che vive al Niguarda. No, beato lui, non lo posso dire, però insomma, dai, ma che paese. Vabbè. Allora, c'è anche il paese che ci piace raccontare ogni tanto, è quello di chi appunto si rimbocca le maniche, volutamente li mettiamo accanto alla classifica poco invidiabile di Focus Economia. Adriano Marconetto, cofondatore di IAR, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Quanti anni ha Marconetto? 55. Ecco, lo dico perché spesso le start-up si associano ai giovani. Non è vero, uno può avere anche 55 anni, non è più giovanissimo, adesso non voglio tirargliela, però insomma, e lanciare una start-up. Allora, lei in realtà non è fresco, cioè non è nuovo alle start-up, perché le ha sviluppate anche nel passato, ma mi dice... IAR che cos'è? È un'azienda nata l'anno scorso con l'obiettivo di creare l'impianto audio da casa migliore al mondo, capace di riprodurre la musica come se fosse suonata dal vivo nella sala. Una sfida quasi estrema, come riprodurre la luce del sole, in effetti. Sto ridendo perché ci sono alcuni ascoltatori che vorrebbero che l'infermiera di Piombino si trasferisse a Niguarda, perché non so se hai sentito la prima parte del programma, adesso l'ho capito anch'io, sono un po' stanco oggi, non capivo perché adesso è venuto in mente. Beh, certo, l'infermiera di Piombino a Niguarda, e come no. Poi mi ha scritto un ascoltatore che è stato in stanza con Cavorsi nel 2011, vabbè, adesso non voglio che diventi il tema della puntata. Altri vogliono i diritti per il film, ma immaginate la vita di un uomo che per 15 anni sta a Niguarda, magari ovviamente c'è spunto anche per un libro. Torniamo a lei invece, Marconetto. Quando l'avete creata, visto che appunto all'inizio del 2015. E il capitale sociale quant'era e chi vi ha dato i soldi? Il capitale sociale è il minimo di legge, quindi 10.000 euro. Poi abbiamo investito finora circa 300.000 euro. E chi nostri, vi l'ha dati? Vostri? Nostri fondatori. Questa è la prima. Io ho iniziato a fare startup nel 99, quando in Italia c'era un solo fondo di venture capital, quello di Alserino Piol, e adesso ce ne sono molti, però questa volta ho deciso di fare una startup autofinanziata da noi. Quindi no venture capitalist per il momento, probabilmente sì in futuro. No, assolutamente no fondi pubblici, fondi europei, quelle cose a quali io sono assolutamente contrario. Perché? Perché credo che siano uno straordinario asset per le economie asiatiche e americane nel farci concorrenza. Disincentivano completamente gli imprenditori dall'investire. Noi imprenditori ci adagiamo sulle tempistiche burocratiche allucinanti dei finanziamenti europei, spesso finiamo per fare ricerche che non sono quelle che volevamo fare all'inizio. Nel frattempo gli asiatici e gli americani, che usano il venture capital, che usano gli investimenti privati, hanno incentivi diversi, corrono di più, realizzano prodotti più legati al mercato e vincono. Senta, dunque avevate quindi 10.000 euro, poi 300.000 euro vostri di investimento, ma siete lei e Giancarlo Sopegno, che è un pianista, esperto in impianti audio e tech, o avete avuto altri soci adesso? No, siamo noi, poi abbiamo dei collaboratori. Ecco, quanti eravate all'inizio e quanti siete adesso? Beh, diciamo, oggi siamo sette persone che lavorano dentro IAR, più una serie di persone che fanno parte della nostra piccola selezionatissima supply chain, creando quindi un team complessivo intorno ai 15-20 persone. E poi, quanti ne producete di impianti e quanti ne avete già venduti? Cioè, qual è l'obiettivo di produzione e come state andando? Allora, questo è un impianto, possiamo definirlo con uno slogan, la Pagani o la Bugatti degli impianti stereo. Quanto costa un impianto, mi scusi? 250.000 euro. Cosa? 250.000 euro a impianto? Vabbè, si sente bene. Ma sono umani, dentro le casse ci sono degli esseri umani che suonano. Perché, insomma, 250 mi dite adesso, parte la battuta, ma da 250.000 a quanto? No, 250.000 euro sono 100 impianti, 100 pezzi unici realizzati totalmente a mano qui a Torino, fatti con fibra di carbonio, legni pregiatissimi, alluminio in lega aeronautica, quindi i materiali migliori, la componentistica migliore per ottenere il suono più naturale e naturalmente tridimensionale. Mi scusi, ma a parte il cardinale Bertone, chi è che ve li ordina? Adesso lasciamo stare tutto su Bertone, ma ce l'avevo qua. No, dico, sono in società, soggetti privati? Sono soggetti privati, noi stimiamo di venderne il 95% all'estero, per questo partiamo con una... con un roadshow a Londra la prossima settimana e quella dopo negli Stati Uniti, e non è di gran lunga non è l'impianto audio da casa più caro. Ci sono, io prima di fare questo investimento ho fatto una due diligence ascoltando vari impianti di vari brand tedeschi, asiatici, americani, che costano anche il doppio, anche di più, e poi ho scelto di farlo perché il nostro suono è diverso. Non faccio ironia, lo dico a chi mi scrive. No, ho detto semplicemente 250.000 euro per un impianto stereo è tanta roba. Però se lei mi dice che appunto ci sono anche impianti dei concorrenti, diciamo così, che arrivano a costare 500-600.000 euro. Una Bugatti e una Pagani costano 1-2 milioni, anche le Ferrari Limited Edition, ci mancherebbe. Le Panda da 10.000 euro. Non pensavo che potesse costare. Il mercato offre diverse opportunità. E nella mia somma ignoranza non pensavo si potesse pagare così tanto un impianto, ci mancherebbe. Quanto ci mettete a montarlo un impianto a 250.000 euro? Non è che con 250.000 euro gli altri manuali delle istruzioni, immagino, no? No, diciamo il processo dura 3 mesi dal momento in cui il cliente... Perché è personalizzato sto impianto? Assolutamente, 100 pezzi unici, uno può scegliersi il colore della fibra di carbonio, il tipo di legno, i tipi di metalli, dopodiché nei 3 mesi in cui viene prodotto noi facciamo uno studio per l'inserimento nella sala d'ascolto della casa del cliente, e poi lo testiamo per 200 ore, quando supera il test lo portiamo a casa del cliente, glielo installiamo e stiamo con lui un paio di giorni per fare tutti i setting e verificare che tutto sia a puntino, diciamo. È un, se mi permette il paragone, se fossimo un brand di moda saremmo haute couture e non prêt-à-porter. Quindi una fascia di mercato completamente diversa. Ci arrivavo anch'io, diciamo che proprio non siate nella fascia Zara e H&M, l'avevo capito anch'io. Senta, le aree dove stanno arrivando le maggiori richieste, quali sono? Rispondo usando una frase di natura contadina. Noi finora abbiamo preparato il terreno, cominciamo a seminare esattamente dalla prossima settimana, sperando di cominciare a raccogliere dalla seconda parte dell'anno in poi. Quindi al momento abbiamo venduto 2 impianti, sono stati venduti diciamo 2 persone private italiane che vivono, una negli Stati Uniti e una in Inghilterra. Crediamo che la maggior parte di questi impianti saranno venduti appunto in quei 2 mercati e non necessariamente inglesi e americani. Ci sono posti nel mondo come Los Angeles, New York e Londra che sono degli hub in cui transitano dai sauditi, dai petrodollari, insomma, ai russi e quant'altro, ci mancherebbe, certo. Sì, però credo che sia, diciamo, il cliente che è intenzionato a fare un acquisto di questo genere è una persona che non lo fa solo per esibire, perché è molto più facile comprare un'automobile per fare ciò. No, ma certo. Quindi credo sia necessaria anche una profonda cultura musicale, una grande passione. Questo mi fa pensare che, diciamo, il mercato in anglosassone nel complesso, certo, e quello europeo sia quello più interessante per noi. Allora, Dunque, vedo tantissimi messaggi. Con quei soldi faccio suonare i Pooh dal vivo tutte le sere nel salotto di casa mia finché sono vivi. Magari è che uno può sentire i Pooh tutte le sere finché sono vivi. E invece attenzione che sull'uso noi siamo fortissimi. Qualcuno mi chiede se fa parte dell'impianto anche il suo telefono. In effetti la sentivo un po' male da questo punto di vista, Marconetto. Immagino non faccia parte. Basta pubblicità, sennò mi arriva anche una sanzione sulla pubblicità. E a parte gli scherzi, visto che dovrete arrivare a 20 persone che collaborano con voi, bocca al lupo. Io penso che da sempre noi ricordiamo quanto la capacità italiana di rendere con una qualità artigianale aggredire il lusso vale anche per il settore dell'hi-fi. Io non conoscevo, ma prendo atto, e se i concorrenti lo fanno pagare 500.000 non ho dubbi che voi abbiate un mercato e per queste cose c'è un mercato in cui Made in Italy comunque ha già un marchio fortissimo di suo. Grazie, in bocca al lupo a lei, a Andrea Marconetto e a Giancarlo Sopegno. Chissà quanto è ancora in collegamento, Marcone? No? Quanto costa una cuffia di un impianto di 50.000 euro? Sicuramente migliori di quelle che abbiamo qua a Radio 24. Con un impianto del genere ci rifacciamo lo studio. Allora, la borsa dopo il traffico e subito e anche il commento sull'andamento non bello dei dati oggi di occupati e disoccupati. 349-238-6666 per sms e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Allora, qualcuno vuole sapere il nome dell'azienda che produce hi-fi di lusso? Si chiama YAR, eccola qua, YAR, YAR. Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Piazza Affari oggi è negativa come la maggior parte delle borse europee. Devo dire che insomma è un po' il prezzo del petrolio che è calato. E Eni perde il 3,80%, la chiusura finale è meno 1,88% per Piazza Affari. Fiat, sono uscite le immatricolazioni? Sì, e adesso le guardiamo assieme perché ho qua le agenzie. Allora, il mercato italiano fa più 17,5% a marzo, e quindi il dato è buono. Fiat fa ancora meglio del mercato, più 21,6% per il gruppo Fiat Chrysler. Sono cresciuti tutti i brand, in particolare Jeep e Fiat. È il 15° mese di fila che Fiat cresce più del mercato. Non si capisce quindi il calo, meno 4,86%. Andrea? I dati italiani sono usciti da borsa chiuso, certo. Certamente oggi ha pesato non solo un settore auto negativo complessivamente in tutta l'Europa. Volkswagen ha perso quasi il 4% perché le sue immatricolazioni negli Stati Uniti sono scese del 10% nel mese di marzo, ma specifico per quanto riguarda Fiat Chrysler hanno pesato anche le dichiarazioni di Marchionne, che ha messo insomma una pietra sulle ipotesi di aggregazione con Peugeot, ipotesi che ogni tanto avevano un po' infiammato il titolo, ma Marchionne ha detto se ci saranno se ci fossero dei vantaggi in questa aggregazione sarebbero comunque troppo contenuti, certo, per dar luogo a questa operazione, e per questo è certo è stato il fattore. Quindi che è Peugeot. Ha fatto di Fiat il Banco Popolare, sì, è Peugeot che l'ha reso, sì, peggiore. Allora, Banco Popolare meno 4,60, CNH meno 4,35, Eni l'abbiamo detta, Telecom meno 3,5, Intesa San Paolo meno 2,5, Fineco Bank meno 2,30, come Saipe, Unicredit meno 2,20, Exor meno 1,80, come Salvatore Ferragamo e la Pop Milano. Bene, oggi invece Azimut è più 3%, Anima Holding più 2,33, Buzzi Unice in più 0,90, come banca. Mediolanum anch'essa in rialzo dello 0,80%. Abbiamo già detto del petrolio ampiamente in apertura. Su Telecom c'è molta prudenza, poi è arrivata anche la notizia della Gcom che ha detto no, ha diffidato Telecom da aumentare il costo del prezzo della telefonata fissa da 10 a 20 centesimi al minuto e l'introduzione dello scatto della risposta da 20 centesimi per le chiamate da casa. non appaiono giustificati questi aumenti, dice l'AGCOM, da condizioni economiche generali, quali l'andamento dei prezzi al consumo o l'aumento del potere d'acquisto degli italiani. In effetti siamo in deflazione e i consumi non partono. Comunque Telecom cala anche per altri motivi? No, beh, diciamo che sicuramente questo aspetto della GCOM ha pesato nel pomeriggio, c'è incertezza su quali possano essere le strategie di Vivendi, in particolare sulla conversione del risparmio, fattore abbandonato, operazione abbandonata a dicembre che aveva già pesato sui titoli ordinari a quel tempo e che potrebbe, se reintrodotta, pesare ulteriormente. L'altro tema è quello di Inuit, perché in settimana diffusa l'ipotesi di tempi un po' più lunghi per la questione della vendita delle torri di Telecom, quindi diversi fattori di incertezza in attesa che il nuovo amministratore delegato Cattaneo dia subito un segnale al mercato di quali possono essere le strategie sia nella crescita ordinaria sia nelle operazioni straordinarie. Allora, grazie Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buon fine settimana anche a te e ai colleghi dell'agenzia di stampa. Allora, il dato è bello secco, disoccupazione a febbraio all'11,7%, sale dello 0,1 rispetto a gennaio, è ancora migliore rispetto a un anno fa, quindi a febbraio 2015, i disoccupati sono 136.000 in meno. Per quello che riguarda gennaio invece, appunto, sono 7.000 in più. Il tasso di occupazione, cioè chi non lavora tra tutti quelli che potrebbero, scende di 0,2 punti fino al 56,4%, e la disoccupazione giovanile invece cala ancora un po' al 39,1% dal 39,2%. Ora, la stessa Istat a dire che su questi 97.000 disoccupati, 97.000 occupati in meno, ben 92.000 sono a tempo indeterminato, è il primo calo dal 2015. Chiedo al dottor Stefano Scarpetta, che è direttore per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali dell'OCSE, in collegamento con noi da Parigi. Buonasera. Buonasera. Poi la riavremo ospite, che oggi la devo un po' comprimere. Ma secondo lei tutto questo effetto è l'effetto della riduzione della decontribuzione, che da fino a 8.000 euro massimo all'anno è scesa quest'anno a 3.250 euro? Cioè, si è esaurito l'effetto? Ma bisogna stare molto attenti, secondo me, a giudicare le variazioni da un mese all'altro, perché è vero che la disoccupazione è aumentata a febbraio rispetto a gennaio, ma era diminuita un po' tra dicembre e gennaio. In realtà da ottobre siamo a un tasso di disoccupazione più o meno stabile. È vero che quando guardiamo le nuove assunzioni c'è stato un picco forte a novembre e poi c'è stata una riduzione sia a dicembre che a gennaio, e sicuramente le decontribuzioni hanno giocato un ruolo, perché sono state ridotte notevolmente rispetto nel 2016 rispetto a quelle che erano nel 2015. Io credo che bisogna guardare un po' i dati su base annuale, e allora lì i dati sono un pochino più confortanti, nel senso che comunque abbiamo avuto un aumento dell'occupazione e soprattutto, a mio avviso, la cosa più importante è un aumento dell'occupazione con contratti a tempo indeterminato significativa, ed è stata anche una riduzione della disoccupazione. L'altro fattore che bisogna prendere in considerazione è che la crescita economica in Italia rimane molto bassa. Noi soltanto un mese fa abbiamo rivisto a ribasso le stime per il 2016 di 0,4%, che è esattamente in media con la riduzione che abbiamo anche apportato alla zona euro, ed è chiaro che in un contesto in cui la crescita economica in Italia era già bassa, adesso si è ridotta ulteriormente, siamo a un 1% su base 2016, anche le prospettive di crescita dell'occupazione si riducono, quindi farei attenzione a leggere troppo, diciamo, sulle variazioni mensili. In questo sono d'accordo, però sul fondo resta la domanda, non è che quel poco che si poteva fare come politica l'abbiamo fatto l'anno scorso, Jobs Act, soprattutto gli 8.000 euro all'anno di decontribuzione per tutti gli assunti a tempo indeterminato per 3 anni, e adesso, se non riparte l'economia, staremo sempre a commentare un meno 7.000, più 8.000, meno 5.000, più 10.000, ma insomma, briciole? Sicuramente ci vuole una ripresa della crescita economica, questo è un dato fondamentale, insomma, è evidente, per poter creare occupazione. Secondo me il Jobs Act ha cambiato anche il comportamento degli imprenditori che stanno assumendo di più, dei datori di lavoro che stanno assumendo di più con contratti a durata indeterminata. Quindi al di là del numero, diciamo, aggregato di crescita dell'occupazione, quello che conta è che stiamo creando in Italia per la prima volta dopo tanti anni dell'occupazione più stabile, quindi potenzialmente anche con delle prospettive di sviluppo di carriera e anche di produttività forse superiore. Quindi c'è stata un'inversione, se vogliamo, nella composizione della creazione e distruzione di posti di lavoro, con una maggiore, diciamo, un ruolo più importante dei contratti a durata indeterminata. Ovviamente, perché cresca l'occupazione in aggregato, c'è bisogno anche di crescita economica, c'è bisogno anche di prospettive di ripresa economica più sicure. Ovviamente l'Italia aveva delle prospettive di ripresa nel 2016, non a causa dell'Italia soltanto, perché ovviamente abbiamo rivisto al ribasso le prospettive di crescita economica per l'insieme dell'area OCSE e per a livello mondiale. Questo non crea delle, diciamo, delle condizioni per gli imprenditori e per i datori di lavoro di essere più aggressivi anche sul fronte della creazione di nuovi posti di lavoro. Però mi dica solo se no, le possibilità, gli strumenti in mano a un governo si sono esauriti a questo punto? Il Jobs Act è una riforma che deve durare nel tempo, quindi secondo me è stato utile metterla in opera. La decontribuzione ha svolto un ruolo importante all'inizio, perché ha anche incentivi maggiori alle imprese per creare questi posti di lavoro con una nuova tipologia di contratto. Non credo che si sia esaurito il suo effetto benefico, ma è importante anche che ci sia effettivamente una ripresa economica. I dati sono positivi, comunque siamo in una ripresa economica, siamo con una crescita dell'occupazione sul medio periodo, non soltanto su base mensile. Quindi questi sono dati incoraggianti. Se guarda un altro caso, che è quello della Spagna, che nel 2012 aveva fatto una riforma, se vogliamo, simile a quella italiana, in realtà poi un anno, due anni dopo si sono messa in moto un meccanismo di crescita dell'occupazione ricca in occupazione, di crescita della crescita economica ricca in occupazione. E quindi io immagino che un fenomeno simile si possa verificare anche in Italia. Grazie per la chiarezza e la sintesi che era obbligata. Grazie come sempre anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana al programma, in studio, in regia e in redazione. Da Sebastiano auguri a voi tutti di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Alleger, volete Alleger, Dario Foglia, Annacci, la mettiamo lunedì Alleger, poi a becco un'occasione la mettiamo. Intanto buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.